La Fiat 500 e la 500. La Fiat 500, prodotta dal 1936 al 1955, soprannominata Topolino, e poi dal 1957 sino al 1975, è senza dubbio fra le automobili italiane più famose. La 500 è nata nel 1991 e, anche se sembra piccola dall'esterno, è capiente e comoda. Ha raggiunto subito un grande successo, ma la sua produzione è stata interrotta nel 1998 con l'introduzione del nuovo modello, leggermente più grande, la Fiat 600. In origine la Fiat ha cominciato a costruire la 600 nel 1955 e la produzione è durata fino al 1969. Questa macchina è diventata anche uno dei simboli del boom economico italiano di questo periodo. La tradizione della Fiat nel campo delle utilitarie continua anche oggi. Infatti, nel 2007 ha messo in commercio la nuova Fiat 500, diventata subito auto dell'anno.